Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Trieste, rogo nella notte in Viale Voltella, evacuati 35 appartamenti. Rogo provocato da un uomo al culmine di una lite con la compagna. Supercoppa UEFA Udine il giorno dopo, vetrina per la città, ma con bene, sicurezza e decoro, ma alcol vietato, sequestrato ad abusivi italiani. Occupazione nel settore agricolo fuori controllo, dilagano appalti irregolari e sfruttamento. La FAI CISL sollecita un tavolo tecnico. La regione punta sull'idrogeno verde, bando da quasi 5 milioni per progetti di ricerca nei nuovi laboratori di Trieste e Udine. A Gorizia il quaderno sospeso della Caritas nelle cartolerie dell'Isontino, offerte per il materiale scolastico per gli studenti meno abbienti. Il meteo del weekend, resta il gran caldo anche a Ferragosto, le temperature cominceranno a scendere soltanto da domenica. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Evacuata nel cuore della notte un'intera palazzina di 35 appartamenti in Viale Voltella a Trieste. Un incendio è scoppiato ed è stato provocato da un uomo dopo una lite violenta con la compagna. L'uomo è stato salvato con un'autoscala dai vigili del fuoco e poi messo agli arresti in carcere. La coppia sembra avesse problemi di abuso di alcol. Alle 4 è qualcosa. Sento bussare sulla porta, sono i vigili del fuoco, mi hanno detto vestiti subito e corri giù. Perché? E ha preso fuoco sull'angolo da quell'altra parte. E che cosa ha visto? Fumo, fiamme? Tutto fumo, praticamente siamo scesi qua in strada, guardavo su dall'alto, veniva fuori fumo abbondante insomma. L'odore ancora invade tutta la tromba delle scale, pozzanghere d'acqua nell'atrio, frutto dell'intervento dei vigili del fuoco nella notte, ma per vedere il nero del fumo saliamo al quinto piano della palazzina di Viale Voltella 10 a Trieste, dove alle 4:20 del mattino sono intervenuti i soccorsi per un incendio causato dal compagno di una donna di circa 40 anni proprietaria dell'appartamento. Sembra che al seguito di una lite violenta tra i due l'uomo abbia appiccato il fuoco. La coppia, confermano gli inquirenti, era problematica. Ha sentito urlare chi? La signora urlava. Io volevo chiamare i carabinieri, pensavo che c'era qualcuno che voleva importunarla. E la ragazza? La ragazza. E invece poi ho visto che era solo, urlava al cielo. I pompieri hanno cominciato a bussare a tutte le porte forte dicendo uscite, uscite, uscite, ci hanno fatto uscire. Mio marito hanno dovuto aiutarli, i pompieri encomiabili, guardi, encomiabili. Questa coppia crea problemi? Ogni tanto c'erano delle intemperanze. Evacuati nel cuore della notte 35 appartamenti, in strada per ore sono finite soprattutto persone anziane e anche una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza e alcune famiglie con bimbi piccoli. Le operazioni di soccorso sono durate circa 5 ore, per fortuna nessuna persona è rimasta ferita, ma la tensione nella palazzina è tanta per una situazione di disagio che proviene proprio dall'appartamento ora sotto sequestro. L'uomo, soccorso con l'autoscala, è stato arrestato, si trova ora al carcere del Coroneo. L'ultimo ragazzo l'aveva minacciata, questa ragazza, urlandole ti brucio la casa, ti brucio tutto. Il problema è che non ci sono solo loro due, ci siamo tutti noi. Sta andando dai carabinieri ora lei? Sì, adesso vado, sì. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. E ora parliamo della Supercoppa europea che si è disputata a Udine, allo Stadio Friuli. Poche ombre quindi ci sono state sul grande appuntamento di calcistico di ieri sera a livello di ordine pubblico e di decoro della città durante e dopo il match europeo. Ma secondo alcuni operatori della ricettività c'è ancora da lavorare sulla gestione e anche sulle ricadute economiche che riguardano questi eventi. Il giorno dopo la Supercoppa europea vinta dal PSG, diversi i bilanci possibili per Udine e per il Friuli. Il primo da fare è quello sulla sicurezza. Tutto è filato liscio grazie al dispositivo che ha visto coinvolti 1.500 agenti nei 3 giorni. 5 tifosi francesi denunciati dopo un controllo ad una macchina al casello di Udine Sud, rispediti a casa prima del match con DASPO internazionale di 1 anno. Viaggiavano con una sbarra di metallo, artifici pirotecnici e vernice spray. Sequestrate grazie alla polizia locale 500 bottiglie di birra via vietate, 7 italiani sanzionati. Dal punto di vista sanitario, 4 malori in città per il caldo, un'altra decina in stadio, un solo ricovero precauzionale, ma tutto gestito dagli oltre 120 soccorritori e dalle 13 ambulanze in città. Dal direttore della Sores, Giulio Trilloi, ringraziamenti alla Croce Rossa per la collaborazione. Al mattino, città già pulita, 150 quintali di rifiuti raccolti. In corso il disallestimento dei villaggi dei tifosi. Dal punto di vista politico, soddisfatto il vice sindaco di Udine, Venanzi, la città si è dimostrata palcoscenico ideale per questo tipo di iniziative, ha detto. Molti tifosi hanno dormito a Venezia o fuori città, è vero, ma ha sottolineato Venanzi, il capoluogo friulano si è dimostrato anche luogo ideale da cui visitare un territorio più ampio. Applausi da Confcommercio allo spirito di comunità, alla visibilità internazionale e alla gestione dell'ordine pubblico. Dal punto di vista del marketing, al di là dei milioni di spettatori, su 2 quotidiani nazionali le pagine pubblicitarie sono tutte a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Per un'analisi scientifica dell'impatto dell'evento, indica il professor Salvatore Amaduzzi, ci penserà l'Università di Udine, incrociando le celle telefoniche e i dati di spesa delle carte di credito delle settimane antecedente e precedente il match. Le polemiche sull'ordinanza anti-alcol, che alla fine ha sortito i suoi effetti, e sui pochi tifosi francesi in Parco Moretti, arrivati in ritardo direttamente allo stadio, riguarda piuttosto il tema della gestione delle aspettative per questo genere di eventi, ed è questo, secondo alcuni addetti ai lavori, il punto su cui c'è ancora molto da lavorare. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Protagonisti più attesi della serata di grande calcio allo stadio Friuli c'era sicuramente Guglielmo Vicario, udinese, classe 1996, estremo difensore degli inglesi del Tottenham. Una serata comunque da ricordare per Guglielmo Vicario da Udine, anche se alla fine la Coppa va al PSG. Il portiere friulano dimostra nella pratica cosa vuol dire saper giocare con i piedi. Suo il lancio da 40 metri e passa su calcio di punizione da centrocampo che innesca l'azione del primo vantaggio del Tottenham. E suoi alcuni interventi determinanti nel corso di una partita che i parigini raddrizzano solo nel finale e non per colpa sua. Poco da fare sui rigori del PSG, battuti in maniera magistrale da Ramos, Dembélé, Lee e Mendes. Un atteggiamento da leader per questo portiere nato e cresciuto con i colori bianconeri e già un rapporto speciale con la tifoseria degli Spurs, testimoniato da un'immagine iconica verso la fine del primo tempo, lui davanti ai pali e la marea bianca dietro, guarda caso, proprio nella curva nord, il fortino dei supporter dell'Udinese. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. La FAI CISL del Friuli Venezia Giulia lancia l'allarme. L'occupazione nel settore agricolo è fuori controllo. Dilaganti gli appalti irregolari, lo sfruttamento, non c'è più tempo, occorre agire. Così afferma il sindacato, che sollecita l'istituzione di un tavolo tecnico tra istituzioni per la sorveglianza e il contrasto dei fenomeni di irregolarità. Una cinquantina le denunce ricevute solo nell'ultimo mese dalla FAI CISL dei cosiddetti lavoratori fantasma, immigrati, richiedenti asilo, quasi tutti pakistani, con contratti e buste paga da braccianti agricoli, in apparenza regolari, ma sconosciuti all'INPS, senza alcun contributo versato né tutele previdenziali, dai 5 ai 7 euro è oggi il loro prezzo di mercato contro i 22 stabiliti dal contratto e dalle norme vigenti, impiegati nei campi anche 7 giorni su 7 per 8 ore al giorno, in condizioni estreme, anche con temperature roventi, sono reclutati da connazionali che hanno aperto partita IVA per diventare imprenditori agricoli senza terra e offrire manodopera in appalto alle aziende agricole che non ne trovano. Negli ultimi 2 anni il loro numero è esploso, sono già oltre 200 in regione, attività che dietro una parvenza di legalità nascondono spesso brutali forme di sfruttamento e caporalato, rileva il sindacato, che segnala anche casi di lavoratori accompagnati dal caporale al bancomat subito dopo essere stati pagati con bonifico per farsi restituire i soldi in contanti. Bastano dai 300 e 500 euro per aprire una partita IVA e costituendo una SRL semplificata il capitale sociale può essere anche di un solo euro e non sono necessari nemmeno particolari requisiti formativi, ricorda il segretario generale della FAI CISL Stefano Gobbo, che da tempo sta denunciando il fenomeno e sulla scorta degli ormai 200 casi di sfruttamento intercettati da inizio anno parla di situazione ormai fuori controllo. Denunciare per gli sfruttati non è facile ed è rischioso, ma c'è sempre più coraggio a farlo, osserva il sindacato, che ha dato mandato ai propri uffici legali di predisporre esposti nelle diverse prefetture. Non c'è più tempo, occorre agire, rilancia Gobbo, sollecitando l'attivazione di un tavolo tecnico per la prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno, mentre si attende anche l'istituzione del previsto osservatorio regionale per il contrasto al caporalato. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Contro i femminicidi e la violenza sulle donne, una camminata tra Udine e Pordenone per sensibilizzare la cittadinanza e non lasciare che le vittime siano dimenticate. Turia El-Rebaibi aveva 30 anni ed era una donna che, come tante, desiderava solamente vivere la sua vita in libertà. E poi c'era Iba, la sua bambina di neanche 7 anni, entrambe uccise 10 anni fa dal marito e padre. Al loro ricordo è stata dedicata la quarta tappa della seconda camminata per la vita, che è partita dalla Panchina Rossa in via della Santissima a Pordenone e attraverso Corso Vittorio Emanuele ha raggiunto Piazzetta Cavour, dove i promotori dell'iniziativa hanno collocato un gazebo. Una camminata con passo silente, hanno spiegato gli organizzatori del gruppo Key del MOS, per lasciare impronte nella coscienza. Non possiamo cambiare quello che è accaduto, ma fare sì che il ricordo di Turia e Iba diventi luce. Ad accompagnarli l'asinello Fendi. Vanes Granzotto, coordinatore Key del MOS. L'asinello Fendi c'entra perché tutto è nato da lui. Tutto è nato da un'idea di Paolo, il proprietario, che l'anno scorso nella prima edizione ci propose l'idea nella settimana di Ferragosto di fare delle passeggiate con l'asinello Fendi. E da lì poi ne abbiamo un attimino parlato ed è nato questo progetto, perché comunque sia volevamo dargli un senso a questa camminata, che non restasse così, una camminata fine a se stessa. Gli organizzatori hanno consegnato una targa commemorativa alla vice sindaca di Pordenone Mara Piccin, presente assieme al consigliere regionale Carlo Bolzonello, con un messaggio. Non dimenticare mai le vittime di femminicidio, sempre ricordarne la memoria. E poi c'è la sensibilizzazione, non essere indifferenti e combattere l'indifferenza. Sabato 16 agosto le ultime due tappe, alle 10 a Porcia e alle 17 a Ceolini di Fontanafredda, con la testimonianza della figlia di Lisa Puzzoli, uccisa a Basiliano nel 2012. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Costante l'impegno delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza anche in queste giornate di ferie, per molti a ridosso del Ferragosto. Nel prossimo servizio parliamo dell'attività della Polizia Ferroviaria di Trieste. Sono una quarantina gli agenti della Polizia Ferroviaria operativi nell'arco delle 24 ore nella sola stazione di Trieste Centrale. La sicurezza sui binari e a bordo dei treni non va in vacanza, perché se in queste giornate ferragostane manca l'utente medio del servizio ferroviario, il pendolare, resta invece massiccio il traffico di turisti, aumentato esponenzialmente, ci raccontano gli agenti, negli ultimi anni con la crescita del numero di toccate delle grandi navi sulle rive del capoluogo giuliano. E poi c'è il fenomeno della rotta balcanica con Trieste, porta d'ingresso in Italia per migliaia di migranti ogni anno, la stragrande maggioranza dei quali non si trattiene in città più del tempo strettamente necessario e sale a bordo delle carrozze alla volta di altre destinazioni, spesso cercando di raggiungere alla fine l'estero. La stazione di Trieste Centrale funziona come un vero e proprio commissariato, ci viene spiegato, ospitando il compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, con competenza su tutte le stazioni, gli scali e i tracciati ferroviari della nostra regione, gestiti da una sorta di cervellone al secondo piano della stazione. E molti passeggeri, ci viene raccontato, sono stupiti di vedere gli agenti salire sui treni e fare controlli. Le più battute dalle forze dell'ordine sono le corse a media percorrenza, seguite da quelle a lunga percorrenza e infine quelle notturne. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora il meteo, il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 32 gradi, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi e mezzo, a Gorizia e a Udine 33 gradi, a Pordenone 31 gradi, a Tolmezzo 28, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 27 gradi, a Tarvisio e a Sappada 26 gradi, sul Monte Zoncolan 24 gradi, sul Monte Lussano 20, sulla costa a Grado 34 gradi, a Lignano 31, temperatura del mare nelle due località 27 gradi. Oggi pomeriggio il cielo sarà in prevalenza sereno sul pianure costa, poco nuvoloso sui monti, dove nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale di calore, più probabile eventualmente verso il Cadore. Su Carso e Trieste soffierà Borino in calo nel pomeriggio, quando tra Lignano e Grado potrebbe entrare brezza dal mare e mitigare il caldo, che invece persisterà in pianura. Per i prossimi giorni sentiamo le previsioni dell'ARPA con Francesco Sioni. Ancora rimarremo all'interno di un contesto principalmente anticiclonico per buona parte dell'Europa, tuttavia affluiranno anche delle correnti più fresche in quota che porteranno a dell'instabilità pomeridiana nei prossimi giorni e in particolare nel weekend. La giornata di Ferragosto quindi sarà diciamo all'insegna del bel tempo su buona parte della regione, il cielo sarà in prevalenza sereno, al più nel pomeriggio la possibilità di cielo poco nuvoloso e con appunto specie nelle zone al confine delle Alpi prealpicarniche, al confine poi con il Veneto, proprio nella zona del Sappadino sarà possibile al più qualche locale temporale di calore. Massime domani in pianura attorno ai 34-37 gradi nella giornata di Ferragosto, sulla costa tra i 31 e i 35. Comunque la bora verso la costa potrà appunto mitigare parzialmente il caldo. Sabato a sereno sulla costa, poco nuvoloso in pianura, nel pomeriggio la possibilità dello sviluppo di qualche rovescio o qualche temporale sulla fascia prealpina che potrebbe in seguito interessare specie l'alta pianura e non si esclude del tutto anche la costa. Borino sulla costa ancora caldo con massime attorno ai 34-37 gradi in pianura e tra i 32 e i 35 sulla costa. Anche domenica una giornata per la prima parte stabile con cielo poco nuvoloso o variabile, nella seconda parte invece la possibilità di qualche rovescio o temporale in montagna e le temperature domenica saranno in leggero calo. All'indomani del pronunciamento del TAR, che ha deciso di non annullare il decreto Salvini sui finanziamenti, il comitato Novo Via ha sottolineato che la sentenza riguarda uno dei punti del ricorso, mentre sugli altri la competenza, è stato ribadito dallo stesso tribunale, spetta al TAR del Lazio, che si esprimerà anche sulle questioni legate alla VINCA, la valutazione ambientale di secondo livello. Sul progetto della cabinovia permangono tutte le inadempienze definite nel ricorso sulla sua ammissibilità al finanziamento. Inoltre le risorse saranno disponibili solo dal 2027 fino al 2034 e questo, insiste il comitato, rende impossibile iniziare i lavori perché il saldo degli stati di avanzamento non contempla pagamenti dilazionati in 8 anni. Si resta in attesa anche del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale sul ricorso legato ai procedimenti amministrativi sull'opera presentato da residenti e associazioni ambientaliste come l'IPU, WWF e Lega Ambiente. La Regione annuncia un nuovo finanziamento destinato alla ricerca sull'utilizzo dell'idrogeno verde. La Regione continua a puntare sull'idrogeno verde come fonte futura di energia. Dopo aver investito oltre 11 milioni sulle nuove infrastrutture scientifiche che sorgeranno sul nostro territorio, ora annuncia un nuovo bando da 4 milioni e 700 mila euro che si apre il 1 settembre per chiudersi il 26 dello stesso mese. Finanzierà i progetti di ricerca sull'idrogeno rinnovabile che saranno sviluppati nei nuovi laboratori in corso di realizzazione nei capoluoghi Giuliano e Friulano e che coinvolgono le Università di Trieste e Udine, la SIS, l'Area Science Park, Sincrotrone, OGS e CNR. Con questo bando, afferma l'assessore all'Università e alla Ricerca Rosolen, consolidiamo investimenti strategici e creiamo le condizioni per attrarre e trattenere capitale umano di altissima qualità. L'obiettivo è trasformare il Friuli Venezia Giulia in un centro riconosciuto a livello europeo sull'idrogeno in grado di connettere la ricerca regionale alle imprese e ad altri centri di ricerca internazionali. Il nuovo bando finanzierà progetti su tutta la filiera dell'idrogeno rinnovabile, dalla produzione alle tecnologie di stoccaggio e trasporto, fino alle celle a combustibile e ai sistemi intelligenti per la gestione integrata delle infrastrutture. Potranno candidarsi a ricevere i finanziamenti i soggetti già coinvolti nei laboratori citati. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di oltre 20 ricercatori altamente qualificati per i progetti che potranno durare fino a un massimo di 48 mesi e che dovranno essere presentati esclusivamente tramite la piattaforma Istanze Online. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. A meno di un mese dalla riapertura delle scuole, la Caritas diocesana di Gorizia ha rilanciato l'iniziativa del quaderno sospeso, sull'esempio del caffè sospeso offerto dai clienti nei bar di Napoli. Alcune cartolerie dell'Isontino raccolgono le offerte per il materiale scolastico da donare agli studenti che ne hanno bisogno. Si chiama quaderno sospeso, ma va ben al di là dei soliti quaderni. Nella scorsa edizione 2024 sono state donate più di 100 penne, 81 set da disegno tra pennarelli, pastelli e acquerelli, poi matite, evidenziatori, correttori, compassi, squadre, righelli, astucci, forbici, colle e altro materiale scolastico, che ha permesso di sostenere bambini e ragazzi di 30 famiglie dell'Isontino. I clienti, recandosi alla cartoleria, possono liberamente scegliere l'entità della donazione, anche minima. Oggi sono venuta a prendere i quaderni per i miei figli. Alessandra mi ha fatto vedere questa iniziativa Quaderno Sospeso e sono orgogliosa di aver partecipato. Se non ci aiutiamo tra di noi, sì, nessuno ci aiuta, ecco. Per l'anno scolastico che inizia il prossimo settembre hanno aderito 6 cartolerie a Farra, Romans di Sonzo, Gradisca e Cormons. Sentiamo la new entry Alessandra Vecchiette della cartolibreria di Cormons. Abbiamo aderito a questa iniziativa per una questione anche culturale, perché è giusto che i ragazzi studino e abbiano la possibilità di farlo fino al massimo delle capacità. E quindi è giusto che tutti abbiano il diritto a studiare, a imparare. Valentina Busatta della Caritas diocesana di Gorizia. Ci teniamo a sottolineare come in questi 7 anni è sempre più forte la rete di comuni e di realtà, ma anche di chi sostiene acquistando i prodotti per la scuola. Tutto ciò è reso possibile perché c'è una comunità attenta, interessata a dare una mano a chi ha più bisogno. Sente vivo questo sentimento di solidarietà. A nome del direttore della Caritas diocesana di Gorizia e dell'arcivescovo, ci teniamo a ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto l'iniziativa e coloro che vorranno far parte di questa squadra. Cormons, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Da 2 anni Cinema Zero porta nel carcere di Pordenone film presentati da esperti e registi come Alberto Fasulo, Andrea Magnani, Marco Carbonera e Laura Samani. Il cinema oltre le sbarre è diventato anche l'occasione per creare un luogo di ascolto e di confronto. Il cinema oltre le sbarre, un impegno settimanale che Cinema Zero non interrompe mai, nemmeno a Ferragosto. Registi ed esperti portano storie, emozioni e riflessioni a chi vive dall'altra parte di quel muro nel centro di Pordenone, come Piero Colussi. Sono storie che noi proponiamo con film che per noi insomma sono facilmente vedibili oggi con un DVD o con qualcosa, e per molti di questi detenuti è un'esperienza assolutamente nuova. Pensiamo a quelli che arrivano dall'Afghanistan o dal Pakistan, e ce ne sono molti, più del 50% sono stranieri, per cui il cinema è anche un momento per, come dire, rompere la monotonia della detenzione. Come viene fatta la scelta dei film? Ognuno di noi, come dire, ha i suoi gusti, per cui si va dal film classico di Hitchcock, io ho fatto Gli uccelli tempo fa, ha un film recente come Io Capitano, un film uscito sugli schermi 2 anni fa, è il film che ha colpito più di ogni altro i detenuti, in particolare quei ragazzi che probabilmente quella strada per venire in Italia attraverso il Mediterraneo l'hanno fatta sulla loro pelle. In un istituto sovraffollato ma con una 50ina di detenuti, il cinema è l'occasione per creare relazioni e fare comunità. Noi abitualmente alla fine del film portiamo delle bibite da bere, portiamo delle cose per stare anche così in un momento insieme, e Don Pier Giorgio Rigolo, che è il cappellano del carcere, è accerchiato dalle persone che hanno qualcosa da chiedergli, da portare una lettera alla moglie, da chiedere una scheda telefonica, insomma, e quello è un momento in cui anche il cinema contribuisce ad andare oltre le sbarre. Pordenone, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. A Monte Maggiore di Savoia, nelle valli del Natisone, si terrà stasera il tradizionale rito della Roginza con la benedizione di mazzi di fiori, erbe ed essenze officinali che poi vengono appesi all'entrata di ogni casa come protezione dall'avversità. L'inizio alle 18 nella chiesa di Monte Maggiore. Il rito è preceduto da un incontro con le donne del Matajure, depositarie di questa tradizione. Ne abbiamo parlato con Maria Trevisi, guida turistica che dalle 14.45 accompagnerà i visitatori nell'esplorazione della chiesa sede del Museo del Matayur per conoscere la cultura e le tradizioni di quest'area. Ci ha spiegato la natura di questo rito antico. Il rito della Rojinsa è un rito che avviene tuttora nelle valli del Natisone e si rifà al fatto che il termine Rojinsa in italiano voglia dire proprio festa della Vergine Assunta in cielo. E quindi la tradizione vuole che nel momento in cui Maria è assunta in cielo, al suo posto nel suo sepolcro vuoto comparvero una serie di rose. E a queste rose, ma più in generale appunto ai fiori, si richiama questa festa, e nei giorni precedenti appunto vengono raccolti delle piante officinali o dei fiori, vengono composte queste mazzi. E i mazzi con questi fiori particolari sono legati ognuno a una virtù di Maria, quindi dall'amore, la purezza, l'umiltà, la speranza, la bellezza interiore, la gentilezza e la fede. Nella giornata appunto del 14 agosto, alle 6 di sera vengono benedetti dal sacerdote durante la messa e poi vengono portati a casa, e una volta portati a casa saranno pronti per essere essiccati e utilizzati durante tutto l'anno. Infatti le erbe benedette verranno bruciate in momenti particolari dell'anno, per esempio a Natale, Capodanno, Candelora, oppure in avversità meteorologica, anche malattie delle persone o un tempo degli animali nelle stalle. È anche un modo per le persone che non abitano più le valli di ritrovarsi, vivendo insieme la propria lingua, la propria cultura, la propria identità. È un rito che è ancora sentito? È un rito ancora sentito, e per esempio a Masseris vengono preparati ben 300 mazzi, un modo per avere un eco della tradizione appunto che viene incarnata nel presente. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Caterina Cabrelli e Riccardo Stoici, in redazione ha collaborato Paolo Nuzzo, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.